Disco Della Settimana. Avevo la strada davanti, ma il futuro alle spalle, dei bambini come genitori. Il mare nel fianco, una ferita aperta, fra lenzuoli di terra troppo soli. Tu, una bottiglia di vino fra le gambe, ed una strada da dimenticare. La borsa piena di rami secchi, nessuna voglia di ricominciare. Sei spuntata dal nulla come questo camion, un frontale ti salva la vita, a volte è necessario. L'acqua corrente non vede le stelle, le ritrovo tutte quante sulla tua pelle. Dici che la musica serve a far tacere le persone, e niente, sei il mio continente, l'ultima casa accogliente. Di specchi per vederci meglio, il Colosseo saluta il nostro risveglio, i gatti neri ci veglieranno, tu il maschio e la femmina, e senza sonno un basso scandirà il ritmo lento dei nostri sospiri. Oh, niente, sei il mio torrente, l'ultima casa accogliente. Dopo questa introduzione credo che per il disco della settimana serviranno molte poche spiegazioni questa settimana. Infatti, Mauro, abbiamo scelto di raccontare un disco di una band che a noi piace tantissimo, in radio sappiamo che è estremamente apprezzata e che è stata anche ampiamente raccontata sia qua in radio e sia sul nostro sito. Ecco, stiamo parlando degli Zen Circus, perché venerdì 13, una data un po' così, cioè nel senso come data forse non delle migliori, è uscito il loro nuovo album, l'ultimo album di inediti, che si chiama L'ultima casa accogliente. L'ultima casa accogliente esce a 2 anni di distanza dal precedente album di inediti Il fuoco in una stanza, e si unisce alla ricchissima raccolta di album pubblicati in più di 20 anni di carriera dagli Zen Circus. Sì, più di 20 anni, perché ricordiamo hanno festeggiato l'anno scorso qua a Bologna il loro ventennale, diciamo, della loro attività. Sì, con una serie di ospiti, tra cui anche alcuni che sono molto legati agli Zen Circus, che sono entrati un po' anche in quest'album, in questa L'ultima casa accogliente. Di questo album sappiamo che è praticamente l'11° album, la carriera appunto è stata molto lunga, sono stati 20 anni di carriera, 10 album, un EP, una raccolta e tantissimi concerti, ma non solo, hanno anche fatto un romanzo antibiografico, come l'hanno descritto loro. Insomma, praticamente gli Zen in 20 anni sono riusciti a diventare una delle pietre miliari, diciamo, del genere musicale rock, ma anche folk, punk, insomma comunque in generale del rock in Italia. Beh, allora abbiamo ascoltato come primo brano quello che chiude l'album e che dà anche il titolo all'album, infatti L'ultima casa accogliente è l'ultimo dei 9 brani che compongono L'ultima casa accogliente, ma adesso vorremmo farvi ascoltare il primo singolo che è stato estratto appunto da questo album, da questo ultimo lavoro. Si chiama Appesi alla luna. Di questo brano ci dicono: Appesi alla luna prende vita durante una notte passata sotto il cielo di Lisbona, silenzioso, taciturna e solitaria come la luna che illumina i saliscendi dell'esistenza, che dopo una moltitudine di gradini si scontra nella mattina, facendoci sentire trasparenti in una città piena di persone, chiedendoci quanto di noi si possa rispecchiare in ognuna di quelle anime. Questo è quello che un po' gli Zen Circus dicono di Appesi alla luna, e torna anche un po' in tutto l'album, in cui comunque gli Zen parlano di tanti temi anche molto forti, perché poi gli Zen hanno questa particolarità di mettere in poesia molte cose crude della vita. E la cosa bella è che da 20 anni riescono a farlo benissimo, ininterrottamente, e riuscendo a sempre far arrivare il messaggio, a centrare il messaggio in un qualche modo. Allora, prima di farvi ascoltare Appesi alla luna, vi diciamo l'ultima piccola cosa. Chiaramente, oltre agli Zen Circus, ci sono delle partecipazioni in questo brano. Andrea Pacchetti ai cori e un grande amico anche di Festivals Backpack, possiamo dirlo, dai, Francesco Motta alla chitarra elettrica. Quindi adesso vi lasciamo a Appesi alla luna. Streghi le mani invece di applaudire, mentre la vita è solo un grande bar. È tardi, la gente vuole dormire, uccidere la notte in tranquillità. Qui pensavi di non essere nessuno, ma una finestra ricorda che sei sempre tu. Hai barattato anche il dolore alla festa della fine della gioventù. Come se non parlasse mai di te, una lingua che non capisci ancora. Ah, guarda quanta gente, perché mai dovresti essere tu importante? Siamo accendini senza sigarette, siamo fame e sete, siamo dei gradini fra le salite e le discese di un milione di miliardi di destini. Appesi alla luna, sopra lì. Sopra le case, quindi alla fine non usciamo mai. E resto in bilico sopra i volti che scompaiono appena te ne vai. Che fine hanno fatto gli occhi di chi non doveva ferirti mai? Ma ti sembrava così vero mentre lo giuravano dentro i tuoi. Come se non parlasse mai di che capisci solo ora. Ah, guarda quanta gente, perché mai dovresti essere tu importante? Siamo accendini senza sigarette, siamo fame e sete, siamo dei gradini fra le salite e le discese di un milione di miliardi di alla luna, sopra Lisbona. Niente, a me quest'album Mauro piace sempre veramente tantissimo. Da quando è arrivato il 13 novembre, insomma, io non faccio altro che ascoltare gli Zen praticamente, come sempre. Beh, insomma, di quest'album vi abbiamo detto che è uscito appunto pochissimi giorni fa per la Universal e contiene 9 tracce. Ne abbiamo già ascoltate due, poi a breve vi faremo ascoltare anche le altre e cercheremo di parlare meno del solito per dare più spazio alla musica. Però è anche giusto dare spazio a quello che gli Zen ci vogliono dire riguardo a quest'album. Quindi abbiamo pensato di leggervi cosa dice la band dell'ultima casa accogliente. Il nostro corpo è l'ultima casa accogliente, l'unica navicella spaziale in grado di farci viaggiare attraverso l'universo dell'esistente. Un corpo trasparente, visibile e vulnerabile che celebriamo con 9 canzoni fatte di testa, cuore e polmoni. Case che possono essere sia rifugi che prigioni, circondate da tante altre e tutte diverse, a formare questa enorme metropoli chiamata umanità. Più suonato che pensato, più bene di conforto che prodotto, questo disco è musicalmente il più libero che abbiamo mai fatto, ci dicono gli Zen Circus. Beh, infatti tra l'altro è un album che si sente che è libero, cioè che proprio lascia fluire in un qualche modo quello che gli Zen avevano voglia di dire. Lo fanno anche in Catrame. Catrame è forse la traccia che a me ha colpito di più. È uscita come secondo estratto dell'album il 28 ottobre, quindi 2 o 3 settimane fa. L'abbiamo ascoltato per raccontarlo appunto sul nostro sito e ci sono alcune frasi che secondo me sono state molto interessanti e molto forti allo stesso tempo. Riguardo questo brano ci dicono: Catrame non poteva che essere la prima traccia del disco, una voce nuda e cruda che introduce il tema portante dello stesso, il nostro corpo come ultima casa accogliente. Un legame indissolubile con i nostri simili e con la morte. Il concetto di libertà diventa effimero di fronte al cordone ombelicale, così come quello di verità crolla fin tanto che raccontiamo bugie a noi stessi. I cerchi creati da un sasso lanciato in uno stagno pian piano si allontanano e quando lo specchio dell'acqua si ricompone riconosciamo il nostro volto per quello che purtroppo troppo spesso siamo, il nostro peggior nemico. Catrame quindi è il secondo singolo che appunto è uscito ed è anche la prima canzone, la prima traccia delle 9 che compongono l'ultima casa accogliente. A me colpisce molto l'incipit di questa canzone perché dice: io sono nata in una casa fatta di catrame, negli anni in cui fumare incinta non faceva alcun male. Il fumo entra nei polmoni e nei polmoni rimane, come il tumore che vorrebbe uccidere mio padre. E lui racconta davvero delle cose anche molto personali a Pino in questo testo. Quindi niente, a questo punto direi che Catrame sarà la prossima traccia che vi facciamo ascoltare per poi tornare da voi e per chi non conosce gli Zen, perché noi l'abbiamo dato un pochino per scontato, parleremo un po' di loro e della loro storia. Io sono nato in una casa fatta di catrame, negli anni in cui fumare incinta non faceva alcun male. Il fumo entra nei polmoni e nei polmoni rimane, come il tumore che vorrebbe uccidere mio padre. Portami da bere, continuiamo a scherzare su tutto quello che ci assilla, sulle storie più lire. Se ci prendono per matti, tu non preoccuparti, ci mettono un minuto a dimenticarci. Vogliamo libertà per tutti i popoli, ma i primi siamo noi. Chi dice che si nasce liberi si sbaglia, il cordone ombelicale ogni giorno lo ricorda. Una poesia va scritta, dedicata e poi abbandonata, chi la usa per piacere agli altri l'ha sprecata. Quindi scavami una buca e seppellisci il mio cuore, sulla lapide scrivi a breve arrivo. Padrone, chiediamo verità. Adesso arriva la parte complicata, perché riassumere in pochi minuti 20 anni di carriera sarà molto molto intenso in un qualche modo. Beh, ma noi ce la facciamo, Mauro. Partiamo dagli Zen. Quindi, da dove vengono gli Zen? Gli Zen Circus vengono da Pisa e sono nati ufficialmente nel 1999, anche se già alcuni componenti della band tra loro suonavano insieme, si conoscevano, insomma, e tutto quanto. Ma ufficialmente gli Zen Circus nascono nel 1999. A 10 anni di distanza esce l'album che li ha consacrati. Andate tutti a fanculo. Bellissimo, è bellissimo. Se non lo conoscete, insomma, fate qualcosa. Usciva nel 2009, un album importantissimo per tutto il panorama musicale italiano. Che tra l'altro è stato anche riconosciuto da Rolling Stone come uno fra i migliori 100 album italiani di tutti i tempi. Quindi è stato davvero un album che è stato un po' una svolta, diciamo. Nel 2011, quindi 2 anni dopo Andate tutti a fanculo, esce Nati per subire, e nel 2014 Canzoni contro la natura, due album che consolidano completamente appunto la giustissima fama degli Zen Circus, anche con dei riconoscimenti piuttosto importanti. Nel 2016 esce poi La terza guerra mondiale, che entra direttamente e integra il scivolato al 6° posto dei dischi più venduti in Italia. Il 2 marzo 2018 viene pubblicato Il fuoco in una stanza, anche qui un album che è un capolavoro, che se non conoscete, pentitevi. No, non diciamo così, che poi cambiano. In ginocchio sui ceci, ma no, potete recuperare, perché potete andarvelo a sentire o anche a leggere la recensione, perché degli Zen abbiamo parlato anche raccontando quest'album. Il fuoco in una stanza è stato l'ultimo album, diciamo, che c'è stato prima dell'arrivo dell'album che vi stiamo presentando oggi. Nel frattempo ci sono state altre cose in realtà, perché gli Zen non si sono fermati, hanno continuato a suonare, hanno festeggiato nel 2019 appunto il loro ventennale qua a Bologna, come dicevamo prima, e lo stesso anno hanno anche partecipato al Festival di Sanremo con un brano che era molto interessante, L'amore è una dittatura. Nel 2019 esce Vivi si muore, 1999-2019, che ripercorre i primi 20 anni di storia del gruppo, perché poi noi siamo partiti da Andate tutti a fanculo del 2009, ma prima di quello gli Zen Circus avevano già pubblicato nel 99 About Thieves, Farmers, Tramps and Policemen sotto il nome di The Zen, poi Visited by the Ghost of Blind Willie Mellon Juice Namington IV, e questo è tutto un nome di un album del 2001, Doctor Seduction del 2004, tutti con titoli in inglese peraltro, però dal 2005 iniziano a fare i titoli in italiano. Vite e opinioni di Nello Scarpellini Gentiluomo, Villa Inferno nel 2008 e appunto Andate tutti a fanculo, quelli che vi abbia raccontato finora. Tra l'altro con Andate tutti a fanculo nel 2009 entrano nella grande famiglia della Tempesta Dischi, che è abbastanza nota per riuscire poi a trovare dei gruppi e degli artisti che diventano famosissimi oltre ai nostri preferiti. Ma sempre riguardo ai loro album, anche per la raccolta dello scorso anno, l'abbiamo raccontata, quindi se volete andare a recuperarvi il podcast o l'articolo potete sentire anche quello che vi abbiamo raccontato. Beh, abbiamo parlato anche troppo, a questo punto ci sentiamo un altro brano. Sì, avevamo detto di fare una piccola biografia, ma è un po' difficile vista la mole di cose che hanno fatto gli Zen Circus nella loro storia. Adesso vi facciamo ascoltare un'altra traccia dal testo bellissimo, quindi drizzate le orecchie e ascoltatevela per bene. La traccia numero 4 si intitola Non. Non era il mare all'orizzonte, non era il vento a muovere le onde, non è la rabbia che mi consola, non è la voglia di vomitarne ancora contro qualcuno che non esiste, contro me stesso e chi non c'entra niente. Una voce in testa mi dice è solo una scusa per non essere felice. Non è la voglia che non ho avuto, non è il passato che ho dimenticato, non è quel viaggio che mi ha cambiato, piuttosto quando sono stato viaggiato. Non è la morte, non è ancora il momento, ma quel momento comunque è dentro. Non è il bambino che è scomparso, è con me, lo sento accanto. Lascia che le navi escano dai porti, lascia che ti vengano a trovare morti, lascia che i colpevoli vengano assolti, lascia stare per sempre il giudizio degli altri. Non è l'amore a farci a pezzi, non è il dolore a scrivere versi, non è la voglia di farmi male, non è la voglia di farmi male. Lasciati abbracciare forte, lasciami le ombre, il dolore, la notte. quando viene buio, mentre parli nel sonno io urlo da solo. Non ero io dentro al tuo corpo, non eri tu a tenermi dentro. Non ero io, non eri tu, non ero io, non eri tu. Non ero io, non eri tu, non ero io, non eri tu. Non ero io, non eri tu, non ero io, non eri tu. Il sangue che mi esce dal corpo è mio soltanto se lo riconosco. Se una ferita aperta dentro cui viaggiare, tu non mi abbandonare. Salvami dai mostri del mondo, salvami da quello che voglio, il male profondo, dalla morale, dall'obbedienza, dalla normalità fatta a sentenza, dalla vergogna, dall'efficienza, la sicurezza, la sufficienza. Non ero io, non eri tu, non ero io, non eri tu. Non ero io, non eri tu, non ero io, non eri tu. Non ero io, non eri tu, non ero io, non eri tu. Il sangue che mi esce dal corpo è mio soltanto se lo riconosco. Se è una ferita aperta dentro cui viaggiare, tu non mi abbandonare. Allora, adesso Mauro, come avevamo promesso prima, siamo brevi, siamo concisi e diciamo le ultime cose. Intanto diciamo chi partecipa alla creazione di questo brano, perché gli Zen sono ufficialmente Appino, voce e chitarra, UFO, basso e voce, Karim Crew alla batteria e voce. Però ci sono anche altri personaggi che ruotano intorno agli Zen. Fabrizio il geometra, tra virgolette, Pagni al pianoforte, tastiere e voce, e il maestro Francesco Pellegrini, chitarra e voce. Del maestro Pellegrini possiamo dire anche che settimana scorsa è stato intervistato all'interno di Fujiko Factory perché ha fatto il suo primo album a nome suo, quindi il maestro Pellegrini. Oltre a loro, all'interno di quest'album ci sono anche Andrea Pacchetti nei cori, come dicevamo, in Appesi alla Luna, e Francesco Motta alla chitarra elettrica, sempre in Appesi alla Luna. Allora, prima di salutarci con un ultimo brano, noi vi diciamo che ovviamente ci aspettiamo che vi sia venuta voglia di comprare l'album. Quest'album sarà disponibile in versione CD e in versione LP. C'è stata anche un'esclusiva Amazon, anche se questa cosa a me non piace molto di questa esclusiva Amazon, ma me lo tengo per me e per voi che ci ascoltate. Cioè un formato vinile che è stato realizzato in una edizione speciale colorata e a tiratura limitata, con una card autografata, diciamo, dalla band, che però nel giro di pochissimi giorni è andata esaurita, ecco. Però vi diciamo anche quest'altra cosa, che se ancora non avete acquistato il CD, potete farlo anche attraverso il sito del Mondadori Store, e attraverso l'acquisto tramite questo sito, solo questo sito tra l'altro, è possibile accedere a un evento esclusivo online e partecipare a un meet and greet, quindi ciao e ci stringe alle mani virtualmente, con la band in programma venerdì 20 novembre, quindi questo venerdì alle 18:30. Ecco, quindi in modo da ascoltarvi e salutare gli Zen Sirius potete scegliere appunto di comprare il CD su Mondadori. Beh, noi vi lasciamo comunque ad assaporare l'ultima traccia, che tra l'altro è anche quella che ha avuto il primo videoclip di quest'album, che è la terza. Si chiama Come se provassi amore. Noi con questa traccia vi salutiamo e vi lasciamo alla conclusione della nostra rubrica Il disco della settimana. Vi auguriamo una buonissima settimana, ascoltate tantissima musica che quando le cose non vanno bene tira sempre sul morale. Ricordo un bagliore, lei sudata mi teneva in braccio mentre lui sconvolto le stringeva la mano. Una casa, qualche carezza, molte urla ed io che dopo poco cammino. Poi un sacco di gente in una stanza dove stavo rinchiuso tutte le mattine ad imparare gli altri. La casa casa è più grande, le urla più forti, aprivo bocca solo per scusarmi. Poi improvvisamente sceglievo io le persone, la musica, le case, la marca delle sigarette. Mi davano soldi in cambio del mio tempo, ma finivano continuamente. Ricordo poco o niente, ma tutto a un tratto mi son ritrovato questo cielo di tempo dentro la memoria, come se alla fine